con semplicità, che ti amo, scritto in un messaggio già inviato a un cellulare che fa quella di Mina, la Mina internazionale, grandissima cantante, grande voce. Sappiamo che Mina comunque si è ritirata dalle scene nel 1978 dopo una carriera televisiva di successo da teatro a canzonissima, per poi rompere il silenzio nel 2001 con l'Immagini Studio ad incidere tre brani tra cui Oggi Sono Io con Alex Britt. Secondo informazioni raccolte da TG.com, la cantante torna a mostrarsi però in 4 DVD. Infatti esce il 4 giugno Individibile, che contengono Caroselli, Barile e Tassoni, le sequenze del live del 1972 e altre rarità mai pubblicate. E naturalmente nei DVD ci sono anche le immagini di Mina in studio nel 2001, dove canta i classici napoletani e i brani della storia della musica internazionale come Tres Palabras e The Nearness of You. Il progetto è stato fortemente voluto dall'etichetta della cantante, ma non è finita, perché ci sarà quindi un ricco volume illustrato a corredare il cofanetto. Insomma, in arrivo una sorpresa inaspettata per tutti i fan dell'artista, che non regala loro un album ma ben 4 DVD di rarità pescate negli archivi TV e personali. Quindi per tutti i fan, non perdete questo Individibile, così si chiama, il 4 giugno, quindi tra poco uscirà questo DVD di 4 DVD della straordinaria Mina. Quindi per tutti gli appassionati, non perdete questo appuntamento, mi raccomando, una voce straordinaria, eccezionale veramente, ad avercela sta voce. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. As you're touching my hair, touch my spirit like the summer moonlight, kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hand. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be mine up to il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Che ce l'ha richiesta dal nostro sito, che vi ricordo è il www.crmhappyradio.it. Out of my mind. So when I think of the time that I beh, a sorpresa ha cancellato il concerto in programma ieri appunto in Belgio, perché la gente della 31enne Popstar ha fatto sapere che è disidratata ed è un po' esausta e che i medici quindi le hanno consigliato di riposare. Cresce la tensione tra fan italiani che attendono la star della musica al Mediolanum Forum di Assago a Milano, già sold out da settimane e unica tappa nel nostro paese. Speriamo che si ristabilisca presto. Il concerto di Anversa sarà riprogrammato il più presto possibile, hanno precisato i responsabili del Palazzo dello Sport di Anversa, dove l'attendevano circa 15.000 persone. Proprio alcune indiscrezioni avevano ipotizzato una seconda gravidanza della diva americana, ma poi comunque è stata smentita. Beyoncé ha fatto sapere la gente, sta aspettando di conoscere il parere dei medici appunto prima di decidere se cancellare anche il secondo show ad Anversa appunto, che è previsto per oggi. La cantante aveva lasciato un mese fa a Belgrado il Mrs. Carter World Tour e il tour chiuderà il 5 agosto a New York al Barclays Center di Brooklyn, quindi speriamo che stia meglio, che possa partire questa sera ad Anversa e poi naturalmente arrivare anche da noi in Italia a Milano, dove ci sono già tutto sold out, quindi nell'attesa di questa straordinaria cantante. Vediamo cosa succederà, che succederà. Lo scopriremo presto. E noi continuiamo con la bella musica. Gioia in Modà. Sognare di volare e avere sempre il bisogno. Per cancellare un ricordo. E non esiste un cielo senza stelle se il resto ad occhi chiusi ed oltre le nuvole guardo. Eppure gioia penso che son vivo, anche in mezzo al casino. Eppure gioia, se penso che da ieri io sono ancora in piedi. Eppure gioia, se penso che son vivo, anche in mezzo al casino. Eppure gioia, se penso che da ieri, io sono ancora in piedi. Distendersi su un prato e respirare la luce. In un fiore e ritrovarsi a sentire. L'odore dell'estate, la fatica delle salite. Per apprezzarle meglio quando saranno discese. Eppure gioia, se penso che son vivo, anche in mezzo al casino. Eppure gioia, se penso che da ieri, io sono ancora in piedi. Tuo tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Marcella che ce l'ha richiesta. Ciao Marcella. Adesso parliamo di amori che finiscono e anche di Facebook collegati, praticamente sono legati, no? Perché quando finisce un amore, diciamo Facebook c'entra e non c'entra, nel senso che ci sono quelli che gli atteggiamenti su social network, per esempio, possono essere diversi. C'è ad esempio chi lo fa, chi pubblica, insomma, la separazione dall'amato, e c'è invece chi comincia a cancellarla, quindi gli atteggiamenti, diciamo, che sono un po' diversi. Quindi chi non riesce a eliminare foto, ricordi e contatti in comune con la persona amata, e c'è invece chi sfoggia senza problemi sul proprio profilo intere collezioni di ex fidanzate o fidanzate, e all'estremo opposto, appunto, gli integralisti del se mi lasci ti cancello, appunto, per citare un famoso film, pronti a rimuovere con precisione chirurgica ogni traccia di precedenti relazioni. Soprattutto se siete tra coloro che pensano istintivamente alla rimozione completa ed immediata della vostra ultima fiamma dal profilo Facebook, però è bene che sappiate che questa non è l'unica strada per non soffrire, diciamo. A dirlo è una ricerca di un team di psicologi dell'Università della California, che ha fornito alcuni consigli utili per depurare, tra virgolette, i social network dei ricordi senza stare male. Definirsi quindi single aiuta qualunque sia l'atteggiamento scelto. Il consiglio è quello di cambiare il prima possibile lo status di relazione, quindi in single, da impegnato a single. Questo aiuterà ad avere un punto fermo da cui ripartire. In più, almeno per un po', è meglio non avere alcuna interazione con l'ex partner, anche se si è deciso di non rimuoverlo, per esempio, dalle amicizie. Gli autori dello studio, inoltre, propongono di fare un vaso di Pandora virtuale, nel quale inserire tutte le foto, tutte le mail, i ricordi relativi quindi alla persona di cui si era innamorati. E lo si può tenere in un angoletto, nascosto del PC, in modo che non capiti di rivederlo spesso, oppure farlo tenere ad un amico fidato, dandogli eventualmente il permesso di cancellare tutte in un futuro. Avete capito? Quindi ci sono atteggiamenti diversi, dipende da come. Questo è quello che comunque consigliano gli esperti. Quindi di cambiare intanto subito lo status, così almeno già si entra nell'ottica. Adesso sono singolo, si va avanti. E poi fate voi, ognuno si comporta, insomma, nella maniera che più, insomma, che crede meglio, insomma. Fate voi invece cosa fate? Cosa avreste fatto? Cosa avete fatto? Se vi è capitato, me lo fate sapere? Sì? E fatemelo sapere qui allora al 3355637251. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene. E ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni. Quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente. Che ho buttato via per niente.

serve. È questione, sai, di tempo. Ci sorprende prima o poi. Prima o poi. Questo è l'amore che fa cambiare in ogni parte di te. Finirci dentro. Esigenza, forse la risposta è tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta inevitabile, l'amore quando arriva arriva, è inevitabile, non si può chiudere la porta. Parliamo ancora di tecnologia. Eh beh sì, ora da un tweet di 140 caratteri si può scoprire quanti anni abbia e di che sesso sia colui che si trova al di là dello schermo. Il software è stato messo a punto dai ricercatori dell'università olandese, che hanno appunto sviluppato un programma online in grado di inquadrare gli utenti di Twitter analizzando i testi dei loro 5T. Sulla base dei dati di quasi 3.000 utenti e relativi tweet, i ricercatori dell'università hanno compilato una serie di liste di parole e sequenze corrispondenti a diverse età e a un genere specifico. Secondo i ricercatori, infatti, i giovani parlano soprattutto di se stessi e usano molti smile, mentre le persone più avanti nell'età preferiscono frasi un pochino più lunghe. Non provate però ora a cercare questa novità, perché diciamo che il programma per il momento è solo riservato a chi parla olandese, quindi ancora non è il momento per noi, non è arrivato il momento, quindi chissà, arriverà anche da noi. Va bene, questa è una novità, la tecnologia va avanti, e quindi anche da questo, da un tweet, si può scoprire al di là dello schermo chi l'età, insomma, è il sesso del nostro interlocutore. Quante cose che si scoprono, ma proprio quante. E noi andiamo avanti. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you let's make a move, yeah. So tell me, girl, if ever

love everything about you. You're imperfectly perfect. Everyone's itching for beauty, but just scratching the surface. Lost time is never found. Can the DJ please reverse it? In life we pay for change. Let's make every second worth it. Any plan can work if you work it. When people say you don't deserve it, then don't give in. Cause hate may win some battles, but love wins in the end. You shine just like the sun, while the moon and the stars reflect your light. Beauty revolves around you. It's only right that all around the world, people want to be loved. All around the world, there's no difference than love. All around the world, people want to be loved. All around the world, e su questa canzone saluto Luigi che ce l'ha richiesta, vi ricordo, dal nostro sito che è il www.crmepiradio.it. Inoltre volevo ricordarvi un appuntamento venerdì 17 maggio alle ore 17.30 presso i locali del Caffè Letterario La Galleria, via 25 novembre, via Mandalisca Cefalù. Ci sarà la presentazione del libro Mafia da legare di Corrado De Rosa e Laura Galesi. Interverranno il giornalista professor Mario Lombardo e il professor Mario Macaluso. Quindi non perdete questo appuntamento venerdì 17 maggio alle ore 17.30. L'orologio batte l'una, tu sei fuori chissà dove. Giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita. Tu che esci con le amiche dici, io che resto che pensare ore. Se poi vero per davvero, o ti vedi con qualcuno. Guarda un po' televisione, c'è del pollo dentro il frigo. Mangia e prova a immaginare le tue mosse e le parole. E che sono un po' geloso, scemo, ma ti amo per davvero. Vero. Sì, vabbè l'autonomia, ma ricorda che sei mia. C'era con te. Chi c'era stasera? Io sono il tuo amore. Sei solo per me. Apro un libro di avventure, è una nuova distrazione. Poi vorrei telefonare, mi dovrei un po' sfogare. E che sono assai nervoso, sono le due, tu sei lontana. Quasi quasi cado in piedi, vado a casa di Marie. Ho sentito l'ascensore, gira chiave nel portone. Faccio finta di dormire, e tu invece vuoi parlare. Sono stata a chiacchierare ore. Ogni tanto sai ci vuole, ci vuole. Hanno tutti dei problemi. Per fortuna io a te, amore. Banane, lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Io sono il tuo amore. Sei solo. Saluto Maria e a proposito di Gianni Morandi, beh, dopo Vasco Rossi anche il fantastico Gianni si è lasciato conquistare dalla mania dei clippini. Infatti su Facebook il cantante ha pubblicato alcuni video in cui canta i suoi vecchi successi, come per esempio Occhi di ragazzo, una canzone degli anni 70. Poi inoltre il cantante si è rivolto direttamente ai suoi ammiratori e ai suoi fan, chiedendo se fossero ben graditi questi clip. Beh, la risposta è stata decisamente positiva e in poche ore la pagina è stata invasa da commenti positivi e complimenti. Bene, bravo anche Gianni Morandi, quasi settantenne, devo dire che se li porta benissimo. Complimenti. All my life and the hereafter, I've never seen someone like you. You're a knife, sharp and deadly, and it's me that you cut into. But I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. Tuo pomeriggio su CRM di Radio è semplicemente insieme. Apra la sua porta,

Treasure, bello, carina, divertente, mi piace, orecchiabile. E sì, e adesso parliamo, ahimè, di un problema che affligge noi donne. Sì, sto parlando della cellulite. Esatto, tra un po' andremo al mare e quindi abbiamo poi paura, oddio, qua c'ho un po' di un cuscinetto di qua, di là, la buccia, la pelle a buccia d'arancia, non va bene. Beh, praticamente sono state scovate, state attente, le sostanze responsabili della cellulite. Ebbene sì, si chiamano AGEs e si tratta di tossine prodotte con la cottura degli alimenti che danneggiano i tessuti connettivi. Se ne è discusso a Roma durante il 34esimo congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica. Per esempio, la pasta asciutta è ricca di AGEs, così come la crosta del pane bianco, la carne cotta arrosta e il latte o fresco o bollito, i dolci cotti al forno, le bevande light e i dolcificanti. Alimenti invece poveri di AGEs sono invece i vegetali, il latte pastorizzato e tutti i cibi cotti a vapore o a fuoco lento. Diciamo che gli studiosi dicono che è sottovalutato l'inquinamento di AGEs contenuti nei cibi che si mangiano ogni giorno e che dipendono dalla manipolazione e la tecnologia di produzione industriale, oltre che naturalmente da alcuni metodi di cottura casalinga. Diciamo che non è possibile azzerare l'introito di questi AGEs, ma è possibile ridurlo seguendo una dieta a basso contenuto di zuccheri, privilegiando quindi cibi crudi o cotti a vapore, riducendo il consumo di bevande zuccherate e di cibi industriali. Inoltre dicono che le scelte alimentari contribuiscono alla distribuzione del grasso in alcune aree del corpo e quindi influenzano la struttura stessa dei tessuti. Modificando la dieta si incide direttamente sulla qualità della pelle. Quindi dobbiamo stare attenti a cosa ingeriamo praticamente e a come li cuciniamo. Poi naturalmente bere molta acqua, che almeno 2 litri al giorno, molta attività fisica senza naturalmente esagerare, e poi piano piano ce la faremo, saremo pronte per questa estate 2013, così potremo andare al mare tranquillamente senza tanti problemi, no? Che ne dite? Beh sì, dai, si può fare, si può fare. E se poi capissi che tutto quale a prima e come prima mi sentissi inutile, io non ho mai pensato se anche l'abitudine è un bel posto per ritrovare me. Di noi ho ancora quella strana voglia di sentirmi sola senza di noi, ma non da ora, se non altro per vederti andar via ancora. Sempre quella vincere e tu non tanto restami un po' addosso. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Sure. pensi, dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Parliamo proprio di lui, sì, di Morgan, il cantautore, nonostante i problemi di salute delle scorse settimane ed essere balzato alla cronaca rosa per aver lasciato la compagna, da cui tra l'altro ha anche avuto una bambina, sarà a X Factor. Dunque i giurati per ora sono Simona Ventura, Mika, Morgan, Elio Le Sue Tese, Nina Zilli e Malika Ayane. Morgan ha annunciato che siederà nuovamente al tavolo della giuria dell'edizione 2013 del Talent Show, che andrà in onda da settembre. Si tratta della sesta partecipazione a X Factor per il cantautore. Il suo ritorno era in forse anche perché lo stesso Morgan a gennaio scorso aveva fatto sapere di non volere tornare più a fare il giudice. Poi ha deciso di ritornare a X Factor perché si può fare musica nel vero senso della parola, spiega appunto. Nel frattempo sono cominciati i casting per questa nuova edizione di X Factor, quindi per chi volesse prendervi parte, sono aperte fino al 23 maggio, quindi sarà ancora possibile iscriversi ai casting. Quindi X Factor, chissà chi uscirà quest'anno da questo talent show? Beh, lo scopriremo molto presto, naturalmente partirà a settembre, quindi ancora c'è un po' di tempo. E noi continuiamo ancora qualche minuto insieme a Jerry e poi naturalmente, ahimè, dovremo salutarci. Però tranquilli, pazienza, perché poi torno, e come se torno. E su questa canzone saluto Chiara, ciao Chiara! You want to call my lover? I mean the right one who can love me for who I am and love for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh.